Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. C'era una volta la saponetta, con una storia plurisecolare, per non dire insomma plurimillenaria, dato che i primi saponi sono tipo del 2800 avanti Cristo. Poi è arrivato il sapone liquido più igienico, soprattutto se parliamo di locali pubblici, ma anche foriero di grandissimi sprechi. Gran parte, e lo sappiamo benissimo, se ne va nello scarico, insomma, prima che sia servito a insaponare le mani. E non è solo una questione di spreco, è anche una questione di inquinamento inutile. E allora stasera vi parliamo di un'idea, si chiama MySoap ed è all'origine di una startup che attualmente ha sede presso l'incubatore imprese innovative del Politecnico di Torino. La startup si chiama Roncolab ed in linea con noi c'è il suo fondatore Danilo Ronco. Buonasera Ronco. Buonasera a tutti voi. Allora, senta, intanto ci descriva subito com'è questo sapone di terza generazione, voi addirittura lo chiamate così. Ma il sapone di terza generazione l'ha ricordato te perché arrivava dopo gli altri due saponi. È un sapone di carta. Carta vuol dire che è fatto con la cellulosa, è impregnato di sapone, perciò si lavora con questi fogliettini. Quindi è un foglio, diciamo, è un rotolino tipo quello dello scontrino. Proviamo a spiegarlo bene, no? Uguale a quello dello scontrino. Che è fatto di carta, imbevuta, diciamo così, poi sarà un po' più complicato, ma insomma che incapsula del sapone. Del sapone, ok. Esatto. E io stacco tanti scontrini, diciamo così. Perché questo qua sarà erogato da un dispenser che è stato messo a punto anche questo dal Politecnico di Torino, perciò ha un design molto avanzato. Ed è no touch, perciò è estremamente igienico e erogerà questi fogliettini di carta che ti cadono in mano mettendo la mano sotto. Ecco, cadono in mano e a questo punto io metto le mani sotto l'acqua, cosa succede a questo fogliettino? Il fogliettino sparisce, lascia il tensioattivo, cioè il sapone sulle mani, uno si lava le mani, tutto sparisce, non rimane più nulla. Ecco, insomma, quali sono i vantaggi? Intanto immagino la dose sarà quella giusta per lavarsi le mani e non 5 volte tanto, questo sarà il minimo. Il minimo sindacale, diciamo. Quali sono i vantaggi? Il giusto e il necessario, che vuol dire 4-5 volte inferiore a un sapone liquido tradizionale. Gli altri vantaggi sono il volume, i pesi. Il volume, consideriamo che un etto del mio sapone corrisponde a 1,5 kg di sapone liquido, sia in volume che in peso. Perché nel sapone liquido c'è tutta l'acqua, no? Appunto per diluirlo. Esatto, il 95% in questi flaconi è acqua, il 5% è sapone, perciò si porta in giro appunto solo l'acqua. Oltre a quello, tutti i prodotti usati per fare questo sapone sono tutti di origine vegetale, tutti quanti, sia biologico che vegetale, perciò non c'è nulla che inquina. Il sapone stesso è un sapone nuovissimo di derivazione biologica, fatto con le biomasse, poi recuperate insomma tutti i materiali di scarto, siete stati insomma molto attenti a questo aspetto della sostenibilità. Certo. Tra l'altro questi fogliettini sono stampabili, no? Per cui esatto, questa è una grossa novità, anche perché non esistono saponi che possono comunicare. In questo caso, essendo carta, ci può stampare qualsiasi cosa, colorato, loghi, slogan, tutto quello che si vuole. Com'è nata questa idea? Le è venuta immagino dalla sua prima occupazione, che ci dica qual è? Io sono un ristoratore qua in Piemonte, uno dei più grandi ristoranti del Piemonte. Del Piemonte, sì, infatti un castello lì, addirittura, sì. Esatto, Castello del Solaro. E comunque lì ho la mia donna delle pulizie fidata ormai da 18 anni che lavora con me, Donna Rosa, che immancabilmente tutte le sere viene lì e ricordandomi che il sapone liquido sta sporcando nei bagni, brocciola. E alla terza, quarta volta consecutiva nella stessa serata gli ho detto: Donna Rosa, metto qualcosa. E lì è nato veramente questo. Senta, a che punto siete con il progetto? Dicevo che attualmente siete una startup innovativa, no? Avete anche vinto almeno un paio di premi, un premio Startup per esempio, no? Sì, ho vinto Startup qui in Piemonte e Valle d'Aosta. E poi ho partecipato al Premio Nazionale dell'Innovazione, che lì vinceva solo uno, non ho vinto io, pazienza. Nel senso, adesso abbiamo messo in funzione la macchina pilota, stiamo facendo i vari test per cercare di renderlo praticamente perfetto e nel momento che facciamo questo stiamo magari cercando dei partner che possono essere sia produttivi che commerciali, che solo vendercelo. Qualcuno che ci metta un po' di soldi, un pezzo di filiera, no? Come tante altre, direi, startup italiane. Esatto, proprio quello. Va bene, grazie Danilo Ronco, in bocca al lupo. Grazie a voi, buonasera. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.